Restiamo in tema di manifesti pubblicitari. Io per un po' mi sono illuso. Ho cercato disperatamente di credere che quelle grandi affiche che da un momento all'altro sono fiorite sui muri della nostra città e sulle fiancate dei tram e fiorendovi di volti infantili con la strana scritta Forza Italia fossero l'effetto di una campagna pubblicitaria a favore di qualche genere merceologico propagabile con l'ostentazione di volti infantili, qualcosa di cui Forza Italia potesse essere l'insolito ma non completamente assurdo marchio di fabbrica, che so, una nuova marca di omogeneizzati o di pannolini, al limite di profilattici, perché certamente delle fattezze infantili così disgustosamente veziose ben si presterebbero a propagandare l'uso di un prodotto mirante a impedire il casuale concepimento di simili mostriciattoli. Adesso però le illusioni sono cadute e quei bambini, mi si assicura, sono semplicemente dei bambini, e Forza Italia è proprio la voluta storpiatura bambinesca dell'apostrofe Forza Italia. Non riferita a quanto pare a una partita internazionale di football, ma alla situazione generale del nostro paese. Quello, si legge chiaramente su ogni manifesto, sia nella versione murale sia in quella tranviaria, è un invito della pubblicità esterna. Cosa sia la pubblicità esterna e come si distingua da quella interna proprio non vi saprei dire, ma a occhio croce suppongo sia la geniale trovata di qualche pubblicitario desideroso di fare pubblicità a se stesso, facendoci pervenire in un momento indubbiamente difficile i suoi auguri e le sue esortazioni a resistere. E in un certo senso lo capisco. I tempi sono duri davvero, la recessione in furia, la disoccupazione dilaga, il dollaro ieri ha superato le 1600 lire, il marco oggi ha sfiorato le 1000, la vittoria del signor referendum è praticamente sicura, la classe politica è in crisi, persino Andreotti ha le canne fino agli occhi e sul Corriere della Sera cominciano ad apparire le interviste ai generali, ma possiamo sempre farcela. Quell'invito... E quell'invito ci esorta a essere ottimisti, a raddrizzare la schiena, a rimboccarci le maniche, a metterci la mano sul cuore, a dare tutti noi stessi per il bene della comunità, perché non tutto è perduto, perché naturalmente dovremmo tutti essere grati a chi ce lo fa giungere. Va bene. Ma perché cavolo i bambini sorridenti e perché la relativa storpiatura bambinesca? Facile. Qualsiasi augurio per essere gradito deve essere sincero, e non solo nel senso di non ipocrita, ma nel senso di sopportato dalla sincera convinzione della possibilità del suo adempimento. L'augurio sottintende un giudizio di fondo positivo, la fiducia che per quanto profonde siano le acque in cui il destinatario si dibatte, la possibilità di scamparne non è completamente preclusa, altrimenti non sarebbe inutile fargli auguri di qualsiasi genere. E che cosa esprimono i bambini? Se non appunto l'innocenza, l'ingenua ma commovente sincerità, che pensassero delle figure eminenti di rompiscatole ideologici come il dottor Freud o Sant'Agostino, soprattutto Sant'Agostino, che con la debolezza delle membra, non con la suavità dell'animo, spiega l'innocenza a quella età. Le masse, che in genere sono composte da genitori, gente che ha un gran bisogno di autogiustificazione, annettono da sempre all'infanzia proprio un valore di questo genere. Per cui nulla di meglio che far esprimere da quelle figure disinteressate un invito augurio che, se pensiamo alle leggi economiche che regolano l'industria pubblicitaria, probabilmente tanto disinteressato non è. Ma non sempre, per fortuna, il gioco funziona. Quei bambini, ma Dio mio, li avete guardati bene quei bambini? Non avete notato come sia falsa la loro spontaneità? Studiati i loro atteggiamenti, accuratamente artefatta la loro immagine, l'amico Accame l'altro ieri mi ha fatto notare come uno, quello su sfondo verdino con cartiglio giallo, sia il ritratto fatto e finito di Gianfranco Minoli. E vabbè, può essere una sua personale disgrazia, sua e dei suoi genitori, ma anche gli altri, guardate, anche gli altri non scherzano, sono tutti allevati, formati, plasmati, atteggiati per essere dei piccoli divi in pectore, a meno che i tempi siano così profondamente corrotti che le povere creature nascano già e crescano naturalmente con quell'espressione, che sarebbe veramente il segno di crisi talmente grave che nessun incitamento e nessun augurio potrebbero tirarcene fuori. Non c'è scampo, figliuoli, non c'è scampo, amici. La falsità di quelle immagini denuncia la falsità di quegli auguri e ci fa capire che siamo davvero nella bratta, ben oltre sopra il livello degli occhi. Da un lato potremmo anche rallegrarcene, perché fa sempre piacere vedere un impostore smascherato, ma dall'altro c'è poco da ridere quando gli adulti si nascondono dietro ai bambini, quando gli adulti non si peritano di sfruttare i bambini. La crisi è davvero grave. Like a horse that bolts in the night, you will feel it shaking the ground. And when the night is in your eyes, you will see things that you've never seen before.